2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 2 novembre 2013. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica da preferire per comunicare con noi, anche perché così non vi limitate a pochi caratteri, magari potete esprimere un parere in modo più completo, senza esagerare naturalmente. 2024@radio24.it. Ci trovate naturalmente anche su altri sistemi, piattaforme, social network, ovvero Twitter, cercate 2024 oppure Enrico Pagliarini, e anche Facebook, c'è la nostra pagina che ogni settimana raccoglie anche il vostro parere. Anche questa puntata sarà disponibile attraverso il sistema podcast, quindi potete scaricare il file MP3 della nostra trasmissione. Naturalmente anche questa settimana c'è stato un ampio dibattito su tutto quello che sta emergendo del sistema tecnologicamente molto avanzato di spionaggio, chiamiamolo industriale, vista la quantità di dati che vengono raccolti dalla National Security Agency americana, che sta facendo un ottimo lavoro, visto il suo mandato, la propria missione. Beh, su questi sono soldi dei contribuenti americani spesi bene, visto che questo è il mandato. E anche questa settimana c'è stato un botta e risposta tra la politica, che dice ah ma noi non sapevamo proprio tutto quello che accadeva, e invece la National Security Agency, che giustamente dice no, noi stiamo facendo tutto ciò per un preciso mandato della politica e della diplomazia internazionale americana. Tutti sapevano tutto, molte aziende sapevano, molte ambasciate a livello politico, anche all'interno, a livello internazionale, si sapevano molte cose, ma naturalmente, visto che oggi tutto ciò, questo grande sistema, è stato messo in luce dalle rivelazioni di Edward Snowden, che alcuni dicono abbia trovato lavoro in un sito internet russo, ma a parte tutto ciò, dicevo, tutto è venuto alla luce, e allora ognuno dalla propria parte sta cercando di correggere il tiro, ha cambiato decisamente atteggiamento. Lo stanno facendo i politici, che erano i primi a sapere tutto ciò, lo stanno facendo anche le aziende americane in modo particolare, che hanno in molti casi collaborato, anche se loro dicono che non è vero. Allora, questa settimana sei grandi società, Facebook, Google, Apple, Yahoo, Microsoft e America Online, AOL, hanno scritto una lettera ai leader del Senato in cui affermano che la trasparenza è il primo passo per un dibattito pubblico informato. Dicono: le nostre aziende ritengono che le pratiche di sorveglianza dovrebbero essere riformate, lo dicono oggi, affinché includano sostanziali rafforzamenti alla protezione della privacy, appropriate supervisioni e meccanismi di responsabilità per i relativi programmi. Qui però ci sono una serie di problemi, perché il dibattito punta a creare un sistema di tutela, ma questo sistema dovrà essere un sistema piuttosto complicato, burocratico, farraginoso, e tutto ciò va contro a quello che deve fare un servizio segreto, che deve essere anche un po' libero di fare quello che ritiene più opportuno per raggiungere l'obiettivo. Qui c'è tutto un piano strategico proprio di a livello paese degli Stati Uniti per affermare la propria supremazia, una propria supremazia che include naturalmente anche una supremazia digitale. Non è un caso che tutti i più grandi computer del mondo, i grandi calcolatori, la massima potenza di un paese risieda negli Stati Uniti, che mantengono la leadership, e questa potenza di calcolo non viene utilizzata solo per la ricerca, industriale, per la ricerca di base, ma viene utilizzata anche per lo spionaggio internazionale, lo spionaggio industriale. E quindi qui si pongono una serie di problemi, perché naturalmente non sappiamo nulla, o comunque il dibattito oggi parla solo di quello che stanno facendo gli Stati Uniti, e nessuno ci dice quello che invece stanno facendo in modo altrettanto massiccio altre grandi nazioni come la Cina, la Russia, gli israeliani, il Giappone e molti altri paesi, anche in Europa, perché anche in Europa ci sono molti paesi che non solo fanno spionaggio politico-diplomatico, chiamiamolo così, ma uno spionaggio industriale che punta anche a, se non proprio rubare proprietà intellettuali da altre aziende internazionali, sicuramente a tenere sotto controllo certe dinamiche. Allora, penso che a questo punto, e qui facciamo una promessa ai nostri ascoltatori anche per le prossime settimane, più che descrivere quello che sta succedendo, perché ci sono mille fonti che lo stanno raccontando e descrivendo, anche Radio 24, anche il Sole 24 Ore, sole24ore.com, eccetera, eccetera, penso che a questo punto ci si debba domandare, quindi domanderemo ai nostri esperti, che cosa possiamo fare noi, ma soprattutto che cosa possono fare le nostre aziende per proteggere le proprie informazioni. Ho letto questa settimana, c'è stato un articolo interessante sul Wall Street Journal, che Ladar Levison, che aveva fondato l'Avabit, che era un servizio di posta elettronica poi chiuso per tutta una serie di motivi, comunque un servizio di posta elettronica che proponeva la cifratura, quindi la protezione dei dati, se appunto un cliente utilizzava quel servizio di posta elettronica, sta lavorando per creare un nuovo servizio chiamato Dark Mail di cifratura potente dei messaggi di posta elettronica. Quindi a questo punto la domanda è: che cosa possiamo fare per proteggere le nostre informazioni? Lo chiederemo ai nostri esperti. Allora, ci sono alcune cose facili, di buon senso, alcune cose invece sicuramente complesse, che devono essere demandate agli esperti. Parleremo di sicurezza anche in questa puntata, ma in tutt'altra veste. Ne parliamo tra poco. Adesso ci sono alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Google ha lanciato anche in Italia il nuovo smartphone Nexus 5, acquistabile solo online ad un prezzo bomba di 349 euro nella sua versione base, quella da 16 giga. Si tratta di un telefono che ha molte caratteristiche di alcuni top di gamma, ma che conferma la strategia di Google, cioè che è interessata soprattutto a diffondere Android e non a guadagnare dall'hardware, quindi hardware a costo più basso rispetto alla concorrenza basato su Android. Anche la scelta di avere poca memoria, perché c'è solo un prodotto da 32 giga ma non è estendibile ad oltre, quindi la strategia di avere poca memoria a bordo è un modo per fare utilizzare i servizi cloud di Google. Lenovo ha presentato a Milano, Pechino e Los Angeles un nuovo tablet, si chiama Yoga Tablet, che sarà in vendita in Italia dalla fine di novembre a 229 euro per il modello 8 pollici Wi-Fi e 299 per il 10 pollici, si aggiungono 50 euro per i modelli 3G. Lo Yoga Tablet è un prodotto Android, anche in questo caso sempre Android, molto sottile, che termina da un lato con una sorta di cilindro dove c'è la batteria, parte dell'elettronica e funge un po' da impugnatura questo cilindro. Una delle caratteristiche è la staffa nella parte posteriore che permette di usarla anche come piedistallo. In questo caso è anche per il Nexus 5. Sul sole24ore.com trovate anche le fotografie, maggiori descrizioni e anche un confronto tra gli ultimi smartphone. Digital News. A proposito di smartphone e tablet Android, alcuni dicono che il problema principale di questi prodotti è proprio Android, che se nella sua versione per smartphone ha fatto passi da gigante, nella versione per tablet ha ancora qualche problema, visto che ci sono poche applicazioni ottimizzate per i tablet Android. Poi ci sono i problemi di sicurezza, come sapete questa è la piattaforma più attaccata e attaccabile, e poi anche un problema di usabilità. Molti esperti continuano a ritenere Apple, quindi iOS e anche Windows Phone, i sistemi più facili da utilizzare per il pubblico non esperto, diciamo così. Poi sicuramente per gli esperti, per gli smanettoni, insomma per gli appassionati di tecnologia, Android è perfetto. Attendiamo di sapere qualche notizia dai prodotti che monteranno Linux, vedremo se ci saranno sviluppi su alcune derivazioni Linux con altri sistemi operativi. Digital News. A proposito di tablet, IDC ha pubblicato i dati di vendita relativi al terzo trimestre. Apple ha una quota di mercato del 29%, Samsung del 20%, terza posizione quella di Asus con il 7%. In questo caso Apple ha una quota che rimane più o meno stabile, mentre Samsung e altri produttori salgono. Circa un terzo del mercato è fatto da una frammentazione di prodotti prevalentemente Android. Strategy Analytics ha pubblicato le proprie rilevazioni relative al mercato degli smartphone nel terzo trimestre. Samsung guida la classifica con una quota di mercato del 35%, Apple è al secondo posto con il 13% e al terzo posto sale la cinese Huawei con il 5% del mercato, superando LG. Facebook ha registrato ottimi conti nella trimestrale presentata questa settimana, ha sorpreso gli analisti, anche io mi sono sorpreso, ha rivisto l'utile spinto soprattutto dalla pubblicità su dispositivi mobili, che oggi conta, pensate, per quasi la metà del business. Questo è un dato sicuramente molto interessante. Il numero di utenti continua a crescere e raggiunge circa 1,2 miliardi di persone attive ogni mese in tutto il mondo, ma Facebook ha ammesso, e forse questa è l'unica nota stonata di questa trimestrale, che tra i più giovani c'è un calo di interesse per il social network. Secondo i nuovi dati AudiWeb, a settembre sono stati 27,9 milioni gli utenti che si sono collegati a internet almeno una volta tramite computer. Nel giorno medio il numero scende a 13,3 milioni, quindi i più assidui che si collegano tutti i giorni. Poi è un dato triste, eh? Ci sono solo 13 milioni, pensate, di persone che si collegano tutti i giorni. La media di collegamento è 1 ora e 19 minuti a persona. Ricordiamo che dal prossimo anno AudiWeb fornirà anche dati relativi agli accessi da tablet e da smartphone. Ultima notizia riguarda l'autorità per le comunicazioni, l'AGCOM, che ha pubblicato i dati della campagna Misura Internet Mobile 2013 per misurare le performance delle reti dei quattro operatori mobili italiani. La velocità media di scaricamento di un file da internet attraverso uno smartphone è di 6,3 megabits al secondo. Dunque non vi so dire se questi 6,3 megabits al secondo sono una buona o una cattiva velocità, non mi sembra male. Comunque sul sito di AGCOM ci sono tutte le informazioni, c'è un dettaglio della ricerca che è stata fatta, di questa misurazione che è stata fatta con un veicolo che ha girato per l'Italia, ha fatto un sacco di chilometri e ha misurato la velocità delle reti in upload e in download. Ci sono anche delle classifiche dei quattro operatori: Vodafone è la prima per download, TIM per upload. Sicuramente i più esperti possono godere leggendo questa ricerca, e magari mandateci anche le vostre considerazioni. Non abbiamo fatto con i nostri esperti nessuna analisi dettagliata di questi risultati, non abbiamo avuto il tempo. Adesso ci spostiamo negli Stati Uniti, dalla parte opposta del globo, potremmo dire così, in California. Saluto Marco Villa, che molti dei nostri ascoltatori forse hanno conosciuto quando abbiamo parlato di SpaceX, questa società privata che ha un contratto con la NASA per mandare in orbita alcuni cargo, e comunque ha un'attività in crescita nel settore spaziale. È una delle aziende private in maggiore crescita negli Stati Uniti per il settore spaziale. Allora, Marco Villa si è spostato, non si è messo a fare un business molto tradizionale, si è, diciamo che ha spostato la frontiera un po' oltre, e lo salutiamo. Bentornato a 2024. Piacere tutto mio, ciao Enrico. Allora, tu Marco sei uno dei due direttori, diciamo così, sei alla guida di Hyperloop Transportation Technology, una nuova società che è stata presentata questa settimana, che nasce sulla base di un progetto molto ambizioso che si chiama appunto Hyperloop. Di che cosa stiamo parlando? Allora, Hyperloop è il nome che l'ideatore di questo concetto che Elon Musk ha dato a questo prototipo, a questa idea di poter tirar via tanti dei problemi che limitano la velocità di treni o di qualsiasi oggetto di trasporto in condizioni normali, quindi quando hai frizione o quando hai l'aria intorno a te ti crea della resistenza che ti limita la velocità stessa. Quindi il concetto è: metti questa capsula all'interno di un tubo, tiri via l'aria fino ad arrivare a una bassa pressione, quindi non è vuoto ma è bassa pressione, e fai lievitare questa capsula con dei cuscinetti d'aria, non magnetici perché costerebbe troppo, magnetico è quello che fanno già in Giappone, in Cina, però farlo su distanze molto lunghe non sarebbe economico, quindi si utilizza l'aria compressa come alternativa. E a questo punto puoi connettere due punti a parecchie centinaia e migliaia di chilometri di distanza in un tempo molto breve. Quindi questo è in generale cos'è l'Hyperloop. Sì, esatto, questo concetto che dovrebbe portare a questo nuovo mezzo di trasporto. Questa è una società che dovrà sviluppare i primi prototipi e arrivare poi ad un progetto. Avete dei tempi già stabiliti o è difficile fare una previsione ad oggi? È molto difficile fare una previsione precisa di quello che faremo, perché siamo adesso alla fase che, diciamo, che si chiama di feasibility, quindi stiamo esplorando esattamente i dettagli e la sequenza dei dettagli a cui lavorare. Abbiamo dei piani, abbiamo dei tempi in generale. Verso marzo, aprile dell'anno prossimo vorremmo avere la capacità, avere abbastanza conoscenza per rilasciare un nuovo white paper, un report insomma, che catturi già un passo avanti rispetto a quello che si sa adesso, quindi con problemi un attimino più definiti, una struttura a livello di costi e di tempistica molto più definita, e poi arrivare verso la fine del 2014 con dei prototipi, o prototipo scala 1-1, però diciamo statico, oppure prototipi più piccoli, sotto scala, ma che riescano a risolvere alcuni dei problemi più tecnici, tipo aerodinamica o eccetera eccetera. Quindi stiamo discutendo un attimino le cose migliori da fare. Questo è un progetto che prevede la costruzione di un mezzo di trasporto che dovrebbe e potrebbe sostituire metropolitane e anche treni veri e propri, giusto? Esatto, sì, una feasibility del mercato, uno studio del mercato dice che potrebbe sostituire anche gli aerei fino a una certa distanza. Oltre una certa distanza sono ancora più economici, almeno sono progettati a essere più economici. Sì, certo, già qualcosa noi l'abbiamo visto in Italia da quando esiste l'alta velocità, che alcune tratte aeree sono diventate quasi inutili. A proposito di costi, avete già fatto delle previsioni? Una cosa del genere, se confrontata con una metropolitana o con una linea ferroviaria, quanto potrebbe costare? Immagino in più, non so. È una cosa molto interessante, c'è molto dibattito riguardo i costi. Io non mi avventuro a dare un costo in generale, perché non ho ancora avuto il modo di mettere penna e carta e fare i miei calcoli, però un primo studio che è stato fatto lo metteva come progetto globale intorno ai 10 miliardi di dollari, quasi sicuramente sarà più costoso di quello, però la cosa importante è che stiamo cercando di adottare tutto quello che abbiamo imparato negli ultimi anni, sia a livello di spazio che a livello di macchine e di energia in generale, fare le cose molto più low cost, e siamo cercando di combinare tutto questo in questo nuovo progetto. Giusto per darti un confronto, c'è un progetto di alta velocità in California che è progettato a costare intorno ai 50 miliardi di dollari. Noi pensiamo di essere molto inferiore, almeno la metà, se non un terzo di quello. Sì, scusa, questi 10 miliardi di dollari servirebbero per far cosa? Tutto lo sviluppo e la messa in piedi della almeno una o due tratte come prima la prova. Biglietti, diciamo, Non lo so, però sarà uno dei driver, una delle cose principali che teniamo in considerazione, di mantenere alla fine il costo del consumatore il più basso possibile, perché costruire una cattedrale o una grande cosa che nessuno usa non ne vale la pena. Sì. Quindi, comunque l'idea immagino che sia quella di creare una prima tratta di questo, non possiamo dire ferroviaria perché non si tratta di una ferrovia vera e propria, comunque una prima tratta che poi potrà essere replicata se la tecnologia funziona in tutto il mondo. Esatto, la cosa bella è che noi siamo aperti a mettere questa prima tratta dovunque, non deve essere qui in California, oppure neanche negli Stati Uniti, può essere in zone più prone, tipo Australia o Medio Oriente o Europa, perché no? Sì, chiarissimo. Senti, ultima domanda relativa ai finanziamenti, chi finanzia questo progetto? Mi fa piacere che tu l'abbia chiesto, è una cosa molto interessante, in aggiunta alla cosa tecnica, che già di per sé è abbastanza complicata, quello che stiamo facendo è stiamo adottando un modello diverso, quindi la ditta che abbiamo creato non è tradizionale, almeno per adesso, ma è completamente o quasi completamente basata sull'aiuto della comunità, quindi abbiamo 100, 1000 persone, 100 persone che sono più diciamo vicine, lavorano parecchio e si estendono fino a 1000 più in maniera meno più limitata di tempo, ma tutti stanno contribuendo e quello che lo fanno è non ricevono soldi adesso, ma ricevono stock options e ricevono possibilità di avere revenue più in avanti, quindi il concetto dell'open source che si usa magari in altri settori lo stiamo cercando di applicare. Nel frattempo stiamo cercando finanziamenti, ci sono diverse persone, sia persone individui ma anche ditte e organizzazioni che stanno iniziando a dire vorremmo darti dei soldi per portarlo avanti. Non abbiamo ancora uno sponsor principale, ma la speranza tra febbraio e marzo di avere qualcosa di concreto. E diciamo che il meccanismo per accendere la miccia è quello del crowdfunding, fondamentalmente. Bravissimo, è più che crowdfunding è proprio crowdsourcing, quindi vogliamo riuscire a sviluppare abbastanza a livello tecnico senza dover pagare diciamo in maniera tradizionale, di modo che poi diventa, le persone probabilmente non possono dire di no, il governo non può dire di no o ditte non possono dire di no perché c'è già molto lavoro fatto e è molto chiaro il vantaggio, quindi cerchiamo di spingere da quel punto di vista. Sicuramente è un progetto ambizioso anche per questo motivo, grazie e naturalmente in bocca al lupo. Grazie molto, è sempre un piacere. Adesso cambiamo argomento e a proposito della tecnologia che ci cambia la vita, che cambia il modo di lavorare, lo diciamo spesso, la tecnologia è un fattore di cambiamento incredibile, un fattore competitivo, un fattore per aumentare l'efficienza delle nostre aziende, anche della nostra vita in generale, ma soprattutto delle nostre aziende. Adesso vi propongo un'intervista molto interessante che ho realizzato questa settimana con l'avvocato Franco Toffoletto. Lo studio Toffoletto De Luca Tamaio è sicuramente uno dei più digitalizzati in Italia. Da molto tempo l'avvocato Toffoletto investe in tecnologie e ha cambiato proprio il modo di lavorare, il concetto che gira attorno ad uno studio legale. Ne abbiamo parlato anche in occasione di un convegno che ha realizzato il Sole 24 Ore con 24 Ore Software, sicuramente EasyLex, il prodotto realizzato da Sole 24 Ore con 24 Ore Software, è a detta degli esperti uno dei software per la gestione dello studio legale più interessanti in tutta Europa, quindi non solo in Italia. Abbiamo parlato di come la tecnologia può cambiare anche il lavoro dei professionisti, ma quello che vorrei trasmettervi, il concetto che vorrei trasmettere è che non vale solo per gli avvocati, vale per tutti i professionisti. L'uso della tecnologia cambia veramente le cose, ci rende molto più efficienti e questo vale per tutte le nostre aziende e se tutti lo fanno chiaramente cambia anche il sistema paese. L'avvocato Toffoletto. Con la tecnologia facciamo tutto, perché uno studio legale è un processo produttivo di un servizio, ma è sempre un processo produttivo, che quindi ha un inizio e una fine, e quindi, come tutti i processi produttivi, deve essere efficientato, e per renderlo più efficiente la tecnologia è assolutamente fondamentale, perché senza la tecnologia non si riesce a fare quello che oggi il mercato chiede. Già per esempio non si riesce a gestire uno studio su più piani, per esempio, perché se la gente non si vede già la comunicazione interna è complicata, oppure uno studio in più sedi, avendo una sede a Milano e una sede a Roma, per esempio, il condividere conoscenze, condividere il processo produttivo diventa molto più complicato. Senza la tecnologia è praticamente impossibile. O meglio, lo si fa, ma a un tempo che il mercato oggi non consente più, perché il mercato oggi ti chiede risposte veloci, professionisti disponibili e una enorme quantità di dati da archiviare che non sarebbe possibile. Quindi se io oggi avessi solo un fascicolo, una pratica sul tavolo, ma qualche mio collega la dovesse guardarla perché magari sono ammalato e l'udienza è a Roma, è chiaro che se io non lo posso portare giù fisicamente il problema si pone. E quindi invece con la tecnologia io vedo, ho a disposizione tutte le informazioni e soprattutto ho un processo che risponde a delle regole che determinano non solo un'efficienza di gestione, nel senso che ci metto meno tempo a inserire i dati, posso inserire più dati perché comunque il sistema mi può inserire una serie di dati che mi danno un'informazione maggiore e una degli avvisi superiori, ma anche un controllo di qualità. Quindi non solo l'efficienza determina un minore lavoro per registrare, diciamo così in termini generici, tutto il processo, ma anche un controllo di qualità, perché tutto il processo è monitorato dal sistema stesso e quindi, per banalizzarla, non mi scappa una scadenza, perché magari quella scadenza è su tre agende invece che su una, che magari nel momento in cui la devo scrivere mi suono al telefono, mi distraggo, non la scrivo sull'agenda e mi perdo la scadenza. Invece il sistema lo fa automaticamente, sempre nello stesso modo, sempre in maniera perfetta, e quindi evidentemente l'efficienza riguarda sia un minore impiego di risorse umane, sia un maggiore controllo di qualità. Questo significa che non avete carta? No, la carta c'è, ci sarà sempre, perché comunque la carta esiste. E poi devo dire anche francamente che ci sono anche dei processi logici nostri che viaggiano, non so perché, meglio sulla carta che sul digitale. Ogni tanto, quando bisogna pensare, è meglio la carta. Però teoricamente possiamo farne a meno. Cioè, se io, non so, chiudessi un armadietto e mi dimenticassi della chiave, perdessi la chiave e non riuscissi a aprirlo, io ho tutto a disposizione in rete, nella mia rete di studio. Quindi se per esempio devo coinvolgere su un'attività, cosa che per esempio è successa questo ultimo weekend, un mio collega di studio di Napoli, lui può andarsi a studiare la pratica senza la carta, la vede tutta dentro nel digitale. Quante persone lavorano in questa rete? Quanti sono gli studi? Noi siamo 105 persone e abbiamo 4 sedi. Quindi in queste 4 sedi, diciamo, condividete tutto? Tutto, assolutamente tutto, compresa la conoscenza dello studio, la conoscenza sofisticata, nel senso che tutti quanti sanno, hanno a disposizione tutto quanto riguarda, diciamo così, il patrimonio di conoscenza dello studio. Anche in mobilità? Anche in mobilità. Quindi, sì, puoi fare tutto anche sull'iPad, sull'iPhone. Noi usiamo solo prodotti Apple e quindi noi possiamo vedere, cioè io non so, se devo scrivere un articolo da casa mi serve una sentenza, ho la mia banca dati, non una banca dati, ho la mia banca dati con le mie cose segnate, con i miei collegamenti logici, con le mie strutture logiche. Senta, naturalmente il tema della sicurezza è un tema importante, non teme, ma non lo teme di sicuro, perché sono molti anni che lei si occupa di questi temi, ma non c'è il timore che si possa più facilmente sottrarre un'informazione allo studio legale? Allora, certamente sì, sì, è un tema molto complesso e il livello di sofisticazione delle aggressioni è oggi molto alto. Evidentemente abbiamo in piedi tutti i sistemi di sicurezza possibili. A me è capitato di perdere un iPad, abbiamo tutti i dati criptati, abbiamo le password, tutti i dispositivi mobili hanno l'obbligo di avere il codice d'accesso. Ma prima della tecnologia, se io avessi perso la mia agenda, io sarei morto. Oggi si perde un iPad, lo si ricostituisce in un millesimo di secondo, perché è tutto sul cloud, è tutto in backup, è tutto fatto e i dati sono protetti. Certo che se poi, voglio dire, magari con sofisticate apparecchiature e gente molto smart può entrare dappertutto, però questo... Certo, diciamo che se lo studio Tuffoletto diventa obiettivo della National Security Agency, probabilmente qualcosa entrano succede. Anche loro, sì. No. Senta, non credo però che abbiano così interesse. Chi lo sa. Senta, i giovani sono tutti digitalizzati? Cioè, diciamo, uno studio come il suo fatto da 30-40 anni. Sono 30, noi abbiamo più di 30 nati dopo l'80. Certamente è molto più facile parlare con loro. Una delle prime lezioni che faccio quando entrano in studio è proprio, si chiama essere digitali, perché certamente hanno manualità, hanno abitudine, hanno velocità nell'uso delle macchine, è tutto molto scontato, ci sono nati insieme, l'hanno visto eccetera. Direi però che hanno poca conoscenza di base, hanno poca conoscenza dei fondamentali, dei concetti fondamentali e quindi sono di tecnologia, non di legge, no, non di diritto. No, certo, di tecnologia. E io sto parlando di laureati con i massimi dei voti e con delle carriere molto importanti. Però cioè, nonostante hanno una conoscenza di tecnologia fatta dall'utilizzo da soli. Non si sono mai fermati a pensare a quale sia il processo, che cosa succede, non hanno delle nozioni di base per me molto importanti, come per esempio solo sapere che cos'è un database. Nessuno gliel'ha mai spiegato, nessuno gli ha mai spiegato come sia l'essenza dei concetti, le nozioni di base dell'informatica, cosa che secondo me si potrebbe spiegare, tenuto conto che sono molto più intelligenti di noi, molto presto, cioè alle medie. Cioè alle medie si potrebbero dare dei concetti di base dell'informatica, ma se non c'è bisogno di avere i computer per insegnare l'informatica, basta una lavagna. Io ho sempre insegnato quel poco che so di informatica senza i computer, con un pezzo di carta, perché i concetti sono lì. Senta, se lei dovesse descrivere i maggiori vantaggi che le ha dato la tecnologia, ha risparmiato soldi, risparmia tempo, è più efficiente e produttivo, cioè, quali sono le cose più importanti? La più importante è che con la tecnologia io mi sono finanziato, cioè ho creato la crescita dello studio è stata determinata principalmente dal fatto che attraverso un processo più efficiente io avevo dei costi più bassi, cioè avevo una efficienza maggiore, una maggiore rapidità e dei costi più bassi dei miei competitors. Cioè in realtà la tecnologia mi ha servito, l'uso della tecnologia fin dagli anni 80, dall'inizio, da quando è nata la tecnologia, diciamo così, fuori dai grandi centri di calcolo, perché fino allora mi ricordi c'erano i grandi centri di calcolo con le persone in camice bianco che per fare un database ci si metteva anni e invece dagli anni 80, dalla metà degli anni 80, io ho cominciato nell'85, ho cominciato a capire che le cose potevo farmele a un costo molto più basso. Oggi i costi sono ancora molto più bassi di quello che erano negli anni 80. Io ricordo che un mio primo Macintosh, ho comprato 3 Macintosh, un disco in rete da 20, da 20 mega, un disco in rete che faceva tutto lo studio da 20 mega, cioè una chiavetta, oggi una sì, chiavetta. Ma nemmeno una chiavetta. No, appunto, sì. Ma una cosa ridicola. E una laser printer, che allora ero praticamente uno dei primi ad avere una stampante laser, laser con Microsoft Word nel 1980, il gennaio del 1985, non 95, costava 30 milioni di lire. Un Macintosh costava 5 milioni, cioè costava come un'automobile. Quindi se pensiamo da allora alla capacità di calcolo che c'è in un iPhone, di strada ne si è stata fatta tanta. Quindi obiettivamente oggi si fa tanto con un costo molto più basso di quello che si faceva allora, e in mezzo ci sono 30 anni di efficientamento di processo, perché questo poi è la questione vera. Cioè, la questione vera è che l'informatica serve per rendere più efficiente il processo. Questa è la voce dell'avvocato Franco Toffoletto, col quale abbiamo chiacchierato questa settimana. C'è naturalmente un aspetto molto interessante e molto importante, questo vale per tutte le aziende e a maggior ragione in questo periodo in cui raccontiamo tutto quello che sta succedendo a livello internazionale a proposito di spionaggio. Allora, lo spionaggio industriale è sempre esistito e oggi esiste ancora di più grazie alla tecnologia, ma ci sono modi per proteggersi. Bisogna proteggersi verso l'esterno, quindi magari cifrare tutto quello che transita dal nostro studio, dalla nostra azienda verso l'esterno, ma un aspetto molto importante che a volte viene sottovalutato è la sicurezza interna. Sì, la sicurezza interna è tanto importante quanto quella esterna. Io vedo spesso macchine lasciate lì aperte in cui si può fare di tutto. Tutto viene lasciato sugli hard disk, aperto, senza password, quindi si mette dentro una chiavetta USB e si porta via tutto. In realtà il patrimonio di un'azienda e soprattutto di uno studio, o diciamo di tutte le aziende che poi soprattutto vendono consulenza, è anche quello che si è fatto e quello che c'è all'interno dello studio. Noi oggi non abbiamo file estraibili singolarmente, quindi è tutto gestito dai software, e quindi non c'è la possibilità di, a parte il fatto che appunto non ci sono disponibili le porte USB sulle singole macchine dello studio, nessuna macchina ha l'USB attiva. Non c'è neanche un repository in cui uno può andare dentro e copiarsi su una chiavetta 500 file. Quindi non ci sono le cartelle con i file copia e incolla? No, non ci sono. Vi faccio sentire alcune altre particolarità del modo di lavorare dello studio Toffoletto. Ma per esempio una cosa che quando dico mi guardano tutti stupiti: non abbiamo le poste individuali, cioè gli indirizzi di posta individuale, nome, cognome, @nomeazienda.it. Noi abbiamo degli indirizzi di posta di gruppo, cioè un team che è fatto da un socio con i suoi 10 collaboratori. Tutti quanti lavorano su, e i clienti scrivono tutti solo lì, in modo tale che la posta possa essere vista da tanta gente, quindi non scappino la posta, viene tutta protocollata ed è tutto all'interno della pratica virtuale. E questo consente di tracciare tutto quello che succede, di essere sicuri che se uno, io adesso sono qua a parlare con lei e intanto in studio le cose vanno avanti lo stesso. E in secondo luogo di tenere la traccia di tutto quello che è successo ordinata per benino. E quindi questo è importantissimo. L'agenda? L'agenda, se le, diciamo, la maggior parte degli avvocati di buttare via l'agenda cartacea, probabilmente ti dicono che non è possibile. Io l'ho fatto 20 anni fa, è possibilissimo. Tutte queste cose sono. Nessuno tra voi ha un'agenda cartacea? No, è vietato da noi, è vietato. C'è una regola che dice che è vietato. L'agenda virtuale è l'unica realtà. Cioè la realtà per noi è l'agenda, e quindi tutti hanno l'accesso alla mia agenda. Poi ovviamente ci sono i sistemi per dare la riservatezza su alcune questioni che devono essere tenute riservate anche all'interno dello studio per vari motivi, ma comunque tutte le persone del mio team possono accedere alla mia agenda, mi scrivono gli appuntamenti e io in questo modo riesco ad essere efficiente. Questa propensione al cambiamento richiede una valutazione al vertice della struttura, non è una questione solo di IT, è una questione di di decisione e di capacità di implementare il cambiamento, perché la propensione per al cambiamento è bassissima. Nessuno vuole cambiare le cose, quindi nessuno vuole perdere la sua email personale, perché la usa anche per tante cose, e ti dicono che non è possibile. Nessuno vuole perdere l'agenda che ti dicono che non è possibile, e nessuno vuole perdere niente di tutto quello che fa, perché ti dice che altrimenti si blocca tutto quanto. Non è vero, perché io l'ho fatto 20 anni fa e funziona molto meglio di prima. Tutto vero ed inutile che io ripeta, la propensione al cambiamento è bassa, la gente fatica a capire che la tecnologia è cambiamento, un cambiamento di processi che rende più efficiente le imprese e le organizzazioni. Chiudiamo questa prima parte di 2024, riprendiamo tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, vi ricordo che ci trovate anche nella nostra edizione podcast con maggiori contenuti, con interviste in versione integrale, trovate tutto su www.radio24.it, ma se vi abbonate attraverso una piattaforma come ad esempio iTunes potete scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione in modo completamente gratuito e automatico. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci sono due notizie che riguardano il mondo dei televisori questa settimana, della produzione di TV questa settimana. La prima riguarda l'arrivo dell'OLED, ne parliamo tra poco. L'altra notizia è la notizia ufficiale comunicata da Panasonic, il produttore giapponese che fino ad oggi è stato il più tenace sostenitore del plasma, che ha comunicato ufficialmente che terminerà la produzione di TV al plasma. Quindi alcuni dicono è la fine dell'era del plasma. Ne abbiamo parlato con Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale D-Day.it e sicuramente uno degli esperti più autorevoli in Europa in fatto di elettronica di consumo. L'annuncio segue appunto alcune notizie, anticipazioni che erano state fatte. Panasonic aveva detto già qualche mese fa che il team di sviluppo non lavorava più sul plasma, quindi gli ingegneri non avrebbero progettato più nuovi modelli, ma questo non voleva dire interrompere la produzione. Invece è arrivata adesso la notizia che la produzione verrà interrotta nelle prossime settimane, tranne per una piccola parte, per una linea produttiva che ancora andrà avanti, ma fino a fine anno, e la vendita quindi col prossimo anno fiscale, quindi che incomincia ad aprile, l'anno fiscale giapponese, quindi col marzo 2014, termineranno definitivamente le vendite dei plasma Panasonic. Questo perché fare plasma, e fare plasma di una certa qualità, quindi con un prezzo non troppo economico, è diventato poco redditizio. In realtà è già anni che si dice che produrre plasma era diventato un po' in perdita con la competizione, con gli LCD che hanno fatto anche molta pressione sul prezzo, sono scesi molto di prezzo in questi ultimi anni, e a questo punto Panasonic ha deciso che questa tecnologia arriva al capolinea. È un vero peccato perché contemporaneamente era anche arrivata alle sue massime espressioni. Gli ultimi modelli stessi della gamma Panasonic e addirittura il modello ZT, quindi il top di gamma dei plasma Panasonic, che si chiamava Ultimate, no? Per dire che era... Cosa era già stato previsto? Infatti che era il massimo della tecnologia, ma oltre che Ultimate anche ultimo. E quindi lì la tecnologia plasma ha toccato i suoi apici qualitativi e però finisce... probabilmente perché, così almeno tutti si aspettano, in corrispondenza dell'inizio di un nuovo ciclo di vita, un nuovo prodotto che è l'OLED. Allora, prima di parlare di OLED però ti faccio un'altra domanda sul plasma. Ci sono altri produttori che però continuano a produrre plasma. Ci sono altri produttori, tipicamente coreani, che continuano a produrre plasma, lo fanno però con un piglio... permettimi di dire low end, cioè cercano di avere un prodotto di prezzo molto aggressivo per i grandissimi polliciaggi, e questo probabilmente destinato ai mercati emergenti più che al nostro mercato, più che all'Europa, forse un po' di più agli Stati Uniti, perché sono, hanno molta voglia di grande schermo negli Stati Uniti, vista anche le dimensioni delle case, di certo non per il Giappone, non per l'Oriente, probabilmente più appunto per la Cina, l'India e i paesi emergenti. Ecco lì ancora il plasma può avere un ruolo, ma non ne avrà più, io dico purtroppo, sin dal prossimo anno qui da noi. Allora, molti, tu sei uno di quelli, molti esperti di tecnologia di immagine dicono e sostengono che il plasma, e anche io sono d'accordo, restituisca la miglior qualità di immagine oggi sul mercato. Quindi vale quasi la pena di comprarli questi ultimi sul mercato? Io dico assolutamente di sì. Se devo ricordare quello che è successo qualche anno fa, quando Pioneer smise la produzione di TV in generale, quindi chiuse la sua divisione TV, e Pioneer all'epoca era stimata come il produttore di TV qualitativamente migliori sul mercato per quanto riguarda la qualità di immagine, erano plasma. Quando dicevamo Pioneer smise con la produzione, lo annunciò con alcuni mesi di anticipo, diversi mesi di anticipo, dicendo, dando anche lì il solito termine: nel mese di marzo saranno terminate le vendite con la chiusura dell'anno fiscale. Ecco, in realtà le scorte, che erano apparentemente abbondanti, perché Pioneer chiudeva anche perché era proprio in difficoltà anche per motivi commerciali, i prezzi, ricordiamo, erano molto alti di quei televisori denominati Kuro, forse qualcuno se li ricorda, ecco, le scorte non arrivarono a fine anno, cioè finirono addirittura prima del tempo, e nelle ultime settimane ci fu proprio una caccia a trovare gli ultimi pezzi da parte degli appassionati, che a quel punto, vedendo, sapendo che il prodotto non ci sarebbe stato più, l'avevano comperato. C'è stata anche una discreta, per i mesi successivi, una discreta compravendita di usati anche a valori superiori a prezzo d'acquisto. Questo per quanto riguarda il plasma Kuro. Io non so se per il plasma Panasonic ci sarà la stessa corsa, anche perché appunto incomincia a fare capolino l'OLED. Però di sicuro chi è molto attento alla qualità d'immagine e soprattutto anche alla qualità d'immagine delle trasmissioni TV tradizionali, che magari sono in standard definition, che sugli LCD purtroppo si vedono molto male, sul plasma meglio, ecco, chi è attento alla qualità d'immagine secondo me dovrebbe stare molto attento, e magari rischia, visti i periodi natalizi, sottocosto, eccetera, eccetera, di trovare anche qualche offerta molto interessante. E quindi di fare un buon affare. Possiamo dire che, quindi, nonostante alcuni produttori continuino a farli, i plasma, possiamo dire che l'era del plasma è finita? Sì, possiamo dire che l'era del plasma è finita a livello commerciale. Non è finita nelle case delle persone, perché chi ce l'ha se lo tiene stretto, e probabilmente chi viene da anni di plasma non è disposto e disponibile a sostituirlo con un LCD. Questo proprio perché cambia un po' l'estetica dell'immagine. Chi ha il plasma in casa oggi lo vivrà ancora per qualche anno, fino a che non ci saranno degli OLED a prezzo accessibile, molto probabilmente. Ecco, a proposito di OLED, visto che non per colpa nostra, però li abbiamo annunciati più volte da questi microfoni, e giustamente alcuni ascoltatori ci hanno fatto notare che abbiamo fatto più volte l'annuncio, cioè stanno per arrivare, poi non arrivavano mai. Questa volta possiamo fare un annuncio vero. Nel momento in cui parliamo, i primi TV OLED sono nei negozi. Quindi adesso, italiani, questo weekend si possono andare a vedere nei primissimi negozi, e nel giro di qualche settimana arriveranno su una base di circa 150 negozi in Italia. Questo è il numero di punti vendita che sarà interessato dalla presenza degli OLED prima di Natale, ragionevolmente. La fare l'annuncio e la prima distribuzione in maniera appunto concreta, non soltanto qualche prototipo da mostrare, ma proprio dei prodotti di vendita, è stata LG, che proprio questa settimana ha fatto una presentazione, ma proprio in concomitanza con l'arrivo proprio dei primi pezzi, ha fatto la presentazione di questo OLED 55 pollici, un prodotto molto interessante. Va detto che è anche una prima generazione, adesso fra qualche giorno arriverà anche nei nostri laboratori, quindi avremo modo poi di testarlo approfonditamente. Visto così al momento del lancio, l'avevamo già visto come prototipo alle fiere, ma visto al momento del lancio il prodotto semifinito, ci pare sicuramente un grande passo avanti. Costo? Costo siamo intorno ai 9.000 euro. 9.000 euro di listino. Io faccio un'altra domanda per non parlare troppo di cose. Quindi diciamo questo è un prodotto da vedere per i pochi fortunati da comprare. Si vede veramente molto bene? Allora, l'immagine colpisce perché i neri sono neri di una profondità che non abbiamo mai visto né sul tubo catodico né sui plasma e men che meno sugli LCD. Quindi come al cinema? No, molto di più in realtà, perché anche al cinema il nero comunque è proiettato, quindi ha una componente di luce residua che rende il nero non così inciso. Qui il nero è un pixel totalmente spento, motivo per cui finalmente mettiamo con l'OLED, finiamo anche per sempre qualsiasi discussione sul rapporto di contrasto, perché il rapporto di contrasto sugli OLED è infinito, perché è un rapporto, quindi luce che abbia qualsiasi valore fratto 0, perché il nero è 0, e qualsiasi numero diviso 0 fa infinito. Quindi il rapporto di contrasto è nativamente infinito, e questo si traduce in un'immagine che è terribilmente contrastata, appunto, e quindi sembra addirittura più definita, anche quando magari non lo è. Per esempio, diciamo chiaramente che questi primi OLED sono soltanto Full HD, non c'entrano niente col 4K Ultra HD di cui abbiamo parlato magari anche altre volte. Malgrado questo, la percezione a colpo d'occhio è quella di un'immagine terribilmente risoluta. Questo effetto nasce proprio dalla profondità del nero. Altra cosa che va vista, perché anche qui può piacere, può non piacere, se ne sta discutendo, è che questi primi OLED che escono non sono piatti, non sono planari come ormai siamo abituati a vedere tutti gli schermi piatti, non sono neanche convessi come i vecchi tubi catodici, ma sono leggermente ricurvi verso l'interno, sono concavi. Questo in realtà nasce da un'esigenza produttiva, parliamoci chiaro, anche se nessuno lo dirà mai, nessuno dei produttori lo dirà mai, diranno che è studiato per aumentare il coinvolgimento. Nasce da un'esigenza produttiva, gli OLED si producono in questo momento più facilmente se i due vetri che li contengono vengono compressi con una leggera curvatura e quindi restano, aderiscono meglio, ma detto questo, la ratio sarebbe anche quella di mettere lo spettatore assolutamente al centro e rendere ogni punto dello schermo perfettamente equidistante rispetto agli occhi dello spettatore. C'è però un problema. Che lo spettatore deve essere perfettamente in asse. Deve essere uno. Tipicamente uno. Diciamo che la curvatura è talmente bassa che a 3 metri di distanza è quasi ininfluente, però è anche piacevole vedere questo TV così curvo, pur essendo spesso come un foglio, perché dobbiamo ricordare che questo TV 55 pollici, per esempio, almeno in tutta la parte periferica, non nella zona centrale posteriore dove c'è l'elettronica, ma in tutta la parte periferica, è spesso circa 4 mm, che è quanto è spesso uno smartphone molto sottile. Peccato che questo è 55 pollici, non è 4 pollici. Quindi stiamo parlando di un qualche cosa di veramente nuovo, incredibile, anche in termini di design. E ha posto anche non pochi problemi in termini produttivi. Per esempio, lo chassis che regge questo schermo, per mantenerlo così sottile, non può essere che di fibra di carbonio, perché non avrebbe se no peso, rigidità e struttura per poterlo mantenere assolutamente in posizione. Beh, ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. 2024. Questa è l'ultima parte di 2024, l'ultimo slot a nostra disposizione, poi troverete la nostra trasmissione in un bel file MP3 online con le nostre interviste in versione integrale, quindi maggiori contenuti se scaricate la versione online. Siamo con Gianfranco Giardina, uno dei nostri esperti, il direttore del magazine digitale dday.it. Stiamo parlando della fine dell'era delle TV al plasma e l'arrivo già concreto in questo weekend. Come avete sentito, in alcuni punti vendita ci sono i primi OLED da poter ammirare, ma sono solo 10 punti vendita in Italia, non sappiamo nemmeno quali sono perché i produttori non ci hanno voluto dire quali sono questi punti vendita, che diventeranno molti di più nelle prossime settimane. Comunque inizia, potremmo dire anche quasi ufficialmente, o meglio concretamente, l'era degli OLED. Ma quanto tempo ci metteranno questi display, che diventeranno display non solo per i nostri televisori ma anche per i monitor dei computer, per tutte le altre cose, a diventare un prodotto di massa? Gianfranco Giardina. È difficile da dire, perché nessuno sa precisamente quali siano i veri costi di produzione e soprattutto quanto sia la difettosità, perché su questo non c'è nessuna dichiarazione ufficiale di nessun produttore. LG ci ha detto che in realtà l'Italia è rientrata nel piano di primo lancio di questo prodotto proprio perché è diminuita molto la difettosità, il che ha reso disponibili una quantità di prodotti superiore al previsto. Questo è la versione ovviamente ufficiale, noi non lo sappiamo per certo, però bisognerà creare delle condizioni di mercato. I prezzi, l'abbiamo imparato, possono scendere molto più velocemente di quanto si possa pensare, l'abbiamo imparato con altre categorie di prodotto, l'abbiamo imparato anche con gli stessi TV. Di certo va detto questo, è una prima generazione di una nuovissima tecnologia che sicuramente soppianterà tutte quelle precedenti. Io mi aspetto che di qui a qualche anno tutti i TV saranno OLED, di tutte le dimensioni, perché OLED ha tutti i vantaggi del tubo catodico, come qualità d'immagine, morbidezza, tutti i vantaggi del plasma, perché ha una qualità d'immagine molto alta, e tutti i vantaggi dell'LCD, cioè si possono creare pannelli OLED da piccolissimi fino a molto grandi, cosa che per esempio col plasma non si può fare, sotto i 42 pollici praticamente non si è quasi mai scesi. Questo mi fa pensare che questa tecnologia soppianterà tutte quelle precedenti, e ovviamente lo farà solo e soltanto quando il livello di prezzo raggiunto sarà adeguato. Non sappiamo quando succederà, però io mi aspetto che i top di gamma del 2014, quindi quelli che vedremo a Las Vegas nel 2000, al gennaio del 2014, saranno tutti Ultra HD LCD. Mentre quelli che vedremo a Las Vegas fra un anno e poco più di un anno, quindi nel gennaio del 2015, saranno invece OLED. Quindi io mi aspetto che nel giro di un anno avremo dei TV OLED sicuramente sotto i 5.000 euro. A questo punto uno che deve comprare una TV che cosa fa? O si compra un plasma, cioè gli ultimi, però rimane comunque il problema. Beh, è un incrocio tra la disponibilità di spesa e l'orizzonte temporale nel quale ci si muove. Cioè, se qualcuno pensa di dover comprare un TV nel giro di un anno e mezzo, e comunque la sua propensione di spesa verso questa categoria non va oltre i 3-4 mila euro, fa bene a comprarsi, a correre a comprarsi un plasma finché ce ne sono, plasma di qualità. Questo perché comunque avrà un TV Full HD molto valido in casa, già connesso, con una longevità sufficiente. E poi stiamo parlando, nel caso di Panasonic, di un marchio che sicuramente esiste, esisterà e che continuerà a fare comunque assistenza sui propri prodotti. Quindi il fatto che la tecnologia poi venga dismessa non vuol dire che il TV diventi vecchio. Anzi, compra un prodotto assolutamente maturo. Se invece la propensione di spesa è un po' più alta e comunque ci si può spostare un pochino più avanti come orizzonte temporale, quindi magari aspettare un annetto da oggi, innanzitutto vediamo bene, vediamo anche in laboratorio come funzionano questi OLED, e poi dovrebbe arrivare OLED a prezzo più basso. Va detta una cosa per chi ha un po' di memoria: non sono mai esistite tecnologie al lancio, quindi una prima generazione di una tecnologia, con una qualità come quella che abbiamo visto sul TV OLED anche nei pochi minuti della presentazione. Nel senso che i primi plasma avevano una qualità d'immagine assolutamente insoddisfacente, bassissima risoluzione, e addirittura pur di passare allo schermo piatto, che poi piatto non era perché aveva una profondità comunque di 10 cm, ma pur di passare allo schermo piatto tutti abbandonavano il bel tubo catodico, perché il tubo catodico si vedeva comunque bene. Poi sono arrivati gli LCD, e i primi LCD erano letteralmente inguardabili, ci aggiungo anche i secondi, i terzi e i quarti LCD, erano letteralmente inguardabili, ci ha messo tanti anni l'LCD per diventare accettabile, malgrado ciò si sono comunque venduti. Ora arriva l'OLED a un prezzo che è sì alto, 9.000 euro, ma non ha niente a che vedere con i 40 milioni di lire dei primi plasma 42 pollici, e quindi siamo a un livello già più basso come prezzo d'ingresso, costano già meno degli Ultra HD, per certi versi, non proprio, nel senso che 55 pollici Ultra HD costa meno, ma comunque stiamo parlando di TV Ultra HD che vanno anche oltre 10.000 euro per pollicciaggi più ampi, e l'OLED ha un vantaggio fondamentale che si utilizza e si gode sin da subito con i materiali che ci sono, mentre l'Ultra HD lo si porta a casa e oggi come oggi ci si fa ben poco, più che vedere le foto o videogiocare per chi allestisce un PC super potente per poterlo fare, praticamente non si fa. Va detto che le console next gen che stanno per uscire, quindi PS4 e Xbox One, non sono compatibili con l'Ultra HD, ovvero non danno un output Ultra HD, non daranno un output Ultra HD, quindi non sono delle sorgenti Ultra HD. Quindi l'Ultra HD in questo momento resta un esercizio di stile, sicuramente impressionante per risoluzione, ma ben poco utile. Cosa assolutamente diversa per l'OLED, chi lo porta a casa domani mattina si diverte da domani mattina vedendo Rai 1, vedendo Sky in alta definizione, vedendo un Blu-ray. La qualità d'immagine è sicuramente eccellente. Ed ora noi concludiamo questa puntata come sempre dando uno sguardo, anche se alla radio è difficile, ma ve lo raccontiamo, sulla copertina, comunque sugli ingredienti principali che troverete domani su Nova assieme al Sole 24 Ore. Saluto Luca Di Biase che guida la redazione di Nova, bentornata 2024. Ciao. Allora, cosa avete scelto per la copertina? Ma il grande tema è l'incontro tra la cultura digitale e la cultura artigiana, che è in fondo un tema strategico per l'Italia. Noi partiamo con un pezzo di Stefano Micelli, che è un economista veneziano che ha studiato il futuro artigiano con un importante libro rimasto sempre in classifica per molto tempo nel mondo degli economisti. Lui parte dalla storia di questa hackathon che c'è stata vicino a Treviso, alle H Farm. Spieghiamo cosa sono le hackathon. È un hackathon, è una maratona di software con questi hacker, appunto, softwareisti che fanno per 48 ore codice. Quindi è una crasi tra hacker e maraton, e maratona, quindi una appuntamento, è questo. E quindi il tema dell'hackathon era posto da delle aziende, diciamo, artigiane, cioè che fanno delle cose tenendo presente il sapere usare le mani per produrre. Per esempio la Physic, che è una grande impresa di selle per bicicletta fatte a mano in maniera eccezionale, eccetera, ha sfidato i ragazzi dell'hackathon, centinaia di persone, a fare un configuratore della sella che possa essere usato via internet in modo tale che la gente si faccia, diciamo, la sella che preferisce e poi la Physic la produce. Questo è interessante, cioè significa che l'artigiano continua a fare l'artigiano come ha sempre fatto, più o meno, e il digitale gli cambia l'intorno? È un grande possibilità per noi, cioè, noi siamo dei produttori di oggetti di nicchia, di oggetti unici, di oggetti di grandissima qualità, e spesso il digitale sembra lontano da questo mondo, ma l'unificazione di queste due culture porta lontano, e per quanto riguarda l'Italia può portare a delle leadership che noi di solito non possiamo cercare nel puro digitale. E l'incontro di queste due culture è il tema del pezzo di Micelli, che tra l'altro segnala come la settimana prossima ci sarà a Firenze CNA Next, che è per l'appunto l'incontro della parte artigiana del nostro sistema produttivo che guarda al prossimo sistema artigiano. l'argomento è straimportante, tra l'altro anche perché si unisce con il fenomeno della produzione di macchine per produrre oggetti, a partire da Arduino e da tutti questi post-robot che si possono costruire in modo abbastanza semplice. E quello che è interessante è come queste cose si uniscano alle nostre grandi industrie dell'esportazione, che sono l'abbigliamento, l'arredamento, l'alimentare e l'automazione industriale, dove noi siamo molto forti nel mondo, siamo una delle economie forti nel mondo, numeri uno, numeri due nei vari settori. Sì. La digitalizzazione di queste componenti con l'apporto degli internetari, di questi che vedono e stanno nativamente in questo mondo, può accelerare la crescita di queste imprese, provocando delle situazioni di leadership culturale che appunto normalmente nel mondo del digitale, dell'innovazione all'americana, noi non possiamo cercare. Sì. Tu sei ottimista oppure, perché stiamo parlando di un atteggiamento culturale anche di questi artigiani, che spesso non sono giovanissimi, che devono sicuramente cambiare o comunque aggiungere a competenze che già hanno altre competenze, che non è sicuramente un processo facile. Ma io sono andato a vedere questi gruppi CNA digitali e sono ragazzi giovani, non perché gli artigiani anziani non siano di valore, ma certamente la gioventù dimostra che l'idea di fare l'artigiano è attraente, e per i nostri giovani deve avere la forma di un artigianato contemporaneo, adatto alla società nella quale i giovani vivono, per cui consapevole degli strumenti digitali. Lavoro a mano lo devi imparare dal tuo maestro, che probabilmente sarà un anziano, ma la valorizzazione digitale del tuo lavoro lo deve insegnare il giovane, lo deve insegnare questa contaminazione tra le culture. Bene, cos'altro troviamo su Nova? Ma c'è un pezzo che riguarda la pubblicità, come sta cambiando. E mi sembra piuttosto interessante notare come la pubblicità via internet si stia trasformando nel senso di inseguire il singolo utente, non in base al luogo che sta navigando, ma in base ai suoi comportamenti, indipendenti dai singoli siti nei quali si trova a fare qualche cosa. Questo tipo di cambiamento è un cambiamento in atto, che è in accelerazione, che chiaramente pone delle sfide ai singoli siti e alle singole concessionarie di pubblicità, e impone un cambiamento di registro anche per gli inserzionisti e per gli stessi consumatori. Essere inseguiti dalla pubblicità e dalla stessa inserzione passando tra diversi siti è un'esperienza comune. Sì. E ha questa spiegazione. Esatto, finché non ci si accorge troppo di questo inseguimento è perfetto, quando ci se ne accorge un po' troppo diventa invasivo, un po' fastidioso. Bene, grazie Luca, buon lavoro, a presto. Grazie a tutti. Quella che avete ascoltato è la puntata in podcast di 2024. Grazie per aver scaricato il file MP3 della nostra trasmissione oppure per averci ascoltato in streaming. In generale, grazie per la vostra attenzione. È tutto per questa settimana e per questa puntata. Riprendiamo la prossima settimana. La prossima settimana ci concentreremo, non per tutta la puntata, ma per buona parte della puntata, sulla security. Cercheremo di capire che cosa possiamo fare noi come cittadini oppure come aziende per in parte proteggerci da quello che sta succedendo. Potete scriverci a 2024@radio24.it oppure parlare con noi attraverso i social network Twitter oppure Facebook, cercate 2024 oppure Enrico Pagliarini, _ Pagliarini. Appuntamento alla prossima settimana. 2024. 2024. 21 seconds and we're on for auto sequence start.